Il punto di Stefano Folli. Prepariamoci allora a questo chiarimento definitivo fra Renzi e Letta, in modo da capire se gli italiani poi avranno finalmente diritto a un governo efficiente e incisivo, reso tale dal sostegno convinto e non lunatico del maggiore partito, il PD appunto, da cui nascono tutte le contraddizioni e che perciò deve offrire la chiave per uscirne. In realtà non si tratta di una vera e propria sfida, perché il potere politico è nelle mani di Renzi e se il segretario sindaco, come sembra, ha deciso di fare il grande passo, l'attuale premier può solo farsi da parte, magari con l'onore delle armi. Dopodiché gli oneri saranno tutti sulle spalle del nuovo Presidente del Consiglio, che arriverà a Palazzo Chigi senza la vittoria elettorale che sognava e per la verità senza nemmeno che sia operativa la riforma elettorale finora appena bozzata grazie all'intesa con Berlusconi. Questo è un fattore di debolezza, uno dei tanti, ma il principale è il groviglio dei problemi lasciati marcire per anni. Ci vuole un gigante per dipanare la matassa e Renzi lo sa. Sarà?